sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La risoluzione dell'ONU per il cessate il fuoco a Gaza non basta, Hamas la respinge, Israele prosegue le operazioni militari. La ricerca del partner, Lufthansa dice i colloqui con Alitalia vanno avanti, oggi CDA di Air France, lunedì quello della compagnia italiana, a Fiumicino protesta degli addetti alla manutenzione. Sulla guerra tra procure, la linea dura di Alfano, via 7 magistrati da Catanzaro e Salerno, il ministro chiede la rimozione del procuratore Apicella. C'è ancora un alpinista italiano bloccato sulle Ande, due sono riusciti a scendere, una donna è morta. Potrebbe riprendere a breve il flusso di gas dalla Russia, ma perché riprendano le forniture vere e proprie all'Europa ci vorranno 3 giorni. La sfuriata è in diretta. Piero Fassino prende a male parole un deputato del PD mentre Radio Radicale lo intervista. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo andando ancora una volta in Medio Oriente. Andiamo in Medio Oriente perché c'è di fatto una piccola svolta diplomatica nella crisi di Gaza. Nella notte infatti le Nazioni Unite hanno approvato con l'astensione però degli Stati Uniti una risoluzione per il cessate il fuoco. Risoluzione però che Hamas ha già respinto. Israele ha fatto sapere che l'offensiva va avanti nonostante la risoluzione. E noi ci colleghiamo con Ramallah, dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Ugo, che cosa sta succedendo? È in corso, anziché la giornata della rabbia a favore di Hamas e di quello che sta succedendo a Gaza, qui a Ramallah è più che altro una giornata a favore di Abu Mazen, circa 10.000 persone stanno manifestando a favore di Fatah e di Abu Mazen chiedendo l'unità fra i palestinesi, perché come noto oggi scade formalmente il mandato presidenziale di Abu Mazen, ma il suo mandato in realtà continuerà fino a che sarà possibile indire nuove elezioni, perché in questa situazione è impossibile. Dunque, mentre Hamas decide e stabilisce che Abu Mazen non è più il presidente della Palestina, i suoi sostenitori qui nella West Bank, dove in realtà non c'è stato nessun movimento a favore di Hamas, nessuna grosse manifestazioni contro quello che sta succedendo a Gaza, in realtà qua si vuole rafforzare il presidente Fatah. Ecco Ugo, questa notte le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione chiedendo di fatto il cessate il fuoco, risoluzione che è stata sostanzialmente già rigettata da Hamas e dalle altre fazioni più estremiste dei palestinesi. Insomma, che prospettive dà questa risoluzione? Quello che è stato deciso stanotte alle Nazioni Unite è semplicemente un po' di luce in fondo all'orizzonte fino ad ora è rimasto assolutamente nero. Non è la soluzione che porterà domani alla fine dei combattimenti, però sicuramente c'è un punto di riferimento diplomatico al quale adesso l'iniziativa egiziana e francese, che era iniziata l'altro giorno, si può riattaccare per cercare di arrivare a quel punto, cioè a una cessazione dei combattimenti, come è stato chiesto dal Consiglio di sicurezza immediata, ma non verrà richiesto nessun ritiro immediato di Israele dalle postazioni che controlla fino a che non ci sarà il vero accordo a lungo termine, quindi la smilitarizzazione di Gaza. Ricordiamo tra l'altro che gli Stati Uniti si sono astenuti in questa risoluzione. Che peso politico ha questa decisione? No, il peso politico sarebbe quasi nullo, poiché l'amministrazione, mentre Abu Mazen, la presidenza di Abu Mazen finisce oggi, la presidenza che rappresenta Condoleezza Rice finisce tra 10 giorni, quindi non c'è una grande differenza. Però sì, è semplicemente un altro, hanno voluto ribadire una volta di più l'appoggio a Israele, cioè si è semplicemente astenuta questa volta, non ha posto il veto, però questa astensione appunto è come ricordare che Israele ha ancora bisogno di tempo e quindi Israele deve concludere la sua guerra ad Hamas, e solamente quando Israele avrà dichiarato la fine allora anche gli Stati Uniti saranno d'accordo a questo cessate il fuoco. Il problema è che giusto oggi le Nazioni Unite hanno denunciato un altro massacro. 2 giorni fa sono stati trovati altri 30 morti sotto le macerie di un edificio e le Nazioni Unite denunciano che erano stati gli israeliani a dire a questi palestinesi di andare a ripararsi sotto in questa questo edificio che sarebbe stato considerato neutrale, invece poco dopo quell'edificio sarebbe stato bombardato dall'artiglieria israeliana. Grazie dunque ad Ugo Tramballi in collegamento con noi da Ramallah. Ora veniamo alla questione all'Italia. L'abbiamo detto più volte nei giorni scorsi, il partner straniero sarà quasi sicuramente Air France KLM. Tra l'altro oggi a Parigi c'è il consiglio di amministrazione che deve dare formalmente il via libera a questa operazione. Non sarà però diffuso alcun comunicato perché si attende il CDA della nuova Alitalia, che è slittato a lunedì pomeriggio. E però intanto oggi Lufthansa ha confermato che i colloqui con la compagnia italiana vanno avanti. Ricordiamo che è particolarmente importante questo dal punto di vista politico italiano, perché Umberto Bossi, insomma la Lega, preferirebbe Lufthansa perché un accordo con Lufthansa privilegerebbe Malpensa. Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. Ormai sembra che la partita sia chiusa con i francesi. Che senso hanno questi colloqui con Lufthansa, Beda? Ma io credo che Lufthansa in questa circostanza voglia tentare il tutto per tutto. Io non credo che Lufthansa sia a questo punto veramente interessata ad un accordo con Alitalia. Ho l'impressione però che voglia utilizzare per quanto possibile il fronte pro Lufthansa Italia per tentare di guadagnare il massimo possibile da questo braccio di ferro italo-italiano. Io ho l'impressione che Lufthansa voglia quindi in un certo senso rafforzare la sua presenza a Malpensa. Lufthansa ha annunciato alcune settimane fa di voler creare Lufthansa Italia e quindi di voler utilizzare Malpensa molto più di quanto non abbia fatto in passato per offrire dei voli tra Milano e altre città europee con degli aerei suoi. Credo che in questa circostanza Lufthansa voglia in un modo o nell'altro utilizzare il fronte pro Lufthansa in Italia per, come dicevo prima, rafforzare la sua presenza a Malpensa. Insomma, i tedeschi stanno un po' approfittando di questa nostra divisione politica. È tattica, insomma, Beda, non è vera volontà di un accordo. Ma io ho l'impressione che sia più tattica, sì, ho l'impressione di sì. È chiaro che Lufthansa è particolarmente interessata al mercato italiano. Il mercato italiano è un mercato importante in Europa, è un mercato di quasi 60 milioni di persone, quindi fondamentalmente è uno dei pochi mercati europei ancora disponibili, e Lufthansa in questi due anni di negoziati, trattative, tira e molla, lo ha dimostrato in varie circostanze. Non dimentichiamo che l'Italia è per Lufthansa il secondo mercato dopo la Germania, quindi è naturale che Lufthansa voglia avere un piede in Italia, lo ha avuto per lungo tempo con l'accordo con Air One, ha cercato in un primo momento un accordo con Alitalia, in più di una circostanza Lufthansa ha fatto capire di essere prudente per vari motivi. Prima di tutto a un certo punto ha posto il problema della solidità finanziaria di Alitalia, poi successivamente ha posto il problema della ipersindacalizzazione di Alitalia, poi sempre fra le righe e fra i denti ha anche espresso dei dubbi sull'influenza politica all'interno di Alitalia. Credo che a questo punto Lufthansa voglia strappare il massimo possibile, sapendo che è molto probabile, anche se non ancora certo, che Alitalia finisca in mano francese. Grazie Beda Romano. Parlavi te della sindacalizzazione di Alitalia. Ebbene, oggi a Fiumicino, Alessandra, ci sono altri problemi. Sì, ci sono altri problemi perché oggi a manifestare sono gli addetti alla manutenzione di Alitalia. Ieri, lo ricordiamo, invece protestavano quelli alle pulizie, al carico scarico, tra l'altro avevano causato molti disagi per la cancellazione di decine di voli. La protesta oggi invece non sembra creare tantissimi disagi, almeno per il momento, al traffico aereo. Paola Cavadi collegata con noi da Fiumicino. Paola. Sì, buongiorno. Qui a Fiumicino l'assemblea dei dipendenti del settore manutenzione di Alitalia è iniziata intorno alle 11 e si sta concludendo proprio mentre vi parlo. Si tratta, secondo i sindacati, di un'assemblea legittima di cui l'azienda ha ricevuto convocazione con 48 ore di anticipo. Per i lavoratori CAI non rispetta gli accordi, per questo dicono la mobilitazione andrà avanti fino al 13 gennaio, giorno in cui è prevista la partenza della nuova compagnia aerea. Lunedì e martedì sono previste altre assemblee a partire dalle 7 del mattino. Abbiamo intervistato Simone, un ex dipendente della manutenzione di Alitalia, sentiamolo. Tu lavori nel settore? Lavoravo, sono in cassa integrazione e tuttora non sono stato riassunto da CAI. Cosa chiedete alla nuova compagnia? Innanzitutto di applicare i criteri siglati a Palazzo Chigi, che prevedevano appunto la riassunzione secondo anzianità, abilitazioni professionali, legge 104. Invece la CAI non sta facendo questo? No, assolutamente no, si giustifica dicendo che ha fatto fare queste assunzioni ad una ditta di consulenza, ma non sono stati appunto applicati i criteri siglati. E quindi, come avete sentito, i lavoratori denunciano il fatto che Sky starebbe stravolgendo i criteri di assunzione. Un altro punto contestato dai sindacati sono le esternalizzazioni non previste di alcune parti del settore manutenzione. La protesta comunque non sembra fino ad ora aver avuto ripercussioni sul piano dei voli, si registra soltanto qualche ritardo dovuto però al caos di ieri. Intanto un gruppo di lavoratori dell'SDL ha occupato gli uffici dove si svolgono le assunzioni della nuova compagnia. E da Fiumicino per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Paola, passiamo a parlare di calcio. In queste ore c'è ancora l'eco naturalmente della sentenza di ieri della 10ª sezione del Tribunale di Roma sul processo Gea, che coinvolge l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, che è stato condannato ad un anno e due mesi. È stato condannato anche il figlio Alessandro sui presunti illeciti attribuiti appunto alla Gea World, la società che ha gestito le procure sportive di numerosi calciatori. È stata esclusa però la associazione a delinquere. Comunque questi reati, queste condanne sono coperte da indulto e quindi non ci sarà carcere per loro. E questo clima riprende domani il campionato. La scia dei processi di Calciopoli, le suggestioni del calciomercato, il maltempo che incombe, le polemiche per le troppe partite in notturna programmate nel periodo più gelido dell'anno e per una sosta natalizia tanto lunga da raffreddare la passione anche dei tifosi più accesi. La Serie A sbarca nel 2009 e gennaio sarà mese decisivo nelle aule dei tribunali. Dopo quella alla Gea comincerà il 20 il processo a Calciopoli e sui campi di gioco. Tutti all'inseguimento dell'intercapolista, infatti, dalla Juventus che ritrova il lungo degenerato Buffon al Milan che mette in mostra lo Spice Boy Beckham, attesa un battesimo di fuoco nel posticipo di domenica all'Olimpico contro la Roma ancora priva di Totti. Da parte loro i nerazzurri ospitano domani a San Siro il Cagliari, a distrarre la banda Mourinho le voci di mercato che danno Cassano e Milito già pronti a vestire nerazzurro magari al posto di Balotelli e Adriano. Ma patron Moratti frena. Devo dire, noi e anch'io e così anche Mourinho siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo, quindi mi sembra che le cose in questo momento siano più che altro per riempire i giornali, ma in realtà non, niente, qualche cosa che a noi non interessa. Domani intanto si riparte, appuntamento alle 18 con Genoa-Torino, sempre che il maltempo conceda una tregua al martoriato Prato di Marassi. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Hamas respinge la risoluzione approvata nella notte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non siamo stati consultati. Israele fa sapere che andrà avanti nell'offensiva. Il documento che chiede il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza è stato approvato con 14 voti a favore, mentre gli Stati Uniti si sono astenuti. L'Italia prepara una missione umanitaria, spiega il ministro Frattini a Canale 5. Stiamo preparando in queste ore una iniziativa umanitaria italiana. Ci sarà un pacchetto Italia di aiuti per Gaza, lo faremo con le regioni e poi a medio termine, nell'arco dei prossimi tre mesi, quando la nuova amministrazione americana sarà in pieno servizio, come dire, avrà preso le sue funzioni, studieremo insieme proprio una sessione dedicata al Medio Oriente. Oggi a Parigi il consiglio di amministrazione di Air France KLM per dare il via libera all'alleanza con la nuova Alitalia, ma non saranno diffusi comunicati in attesa del CDA di Alitalia che è slittato a lunedì. Intanto Lufthansa ha confermato oggi che proseguono i colloqui con la compagnia italiana, ma secondo gli esperti si tratta solo di un modo per avere più peso nella scelta degli slot di Malpensa. Casa De Magistris, il ministro della giustizia Alfano chiede al CSM, che si riunirà domani, il trasferimento di sede e di funzione per sei magistrati delle procure di Salerno e Catanzaro. Per il procuratore di Salerno, Luigi Apicella, il ministro chiede la sospensione della funzione e dello stipendio. Sono arrivati ad una base a 2600 metri Marina Attanasio e Mirko Affasio, due degli alpinisti italiani bloccati sulle Ande. Sono coscienti e stanno relativamente bene. Il terzo sopravvissuto, Matteo Refrigerato, è ancora bloccato a quota 6200 metri. Morta invece Elena Senin e la guida della spedizione, un uomo argentino. In carcere a Palermo il figlio di Totò Riina, Giuseppe. Ieri la Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Riina Junior deve scontare una pena residua di 3 anni ed un mese. Per spalare la neve Milano chiede aiuto all'esercito. Il sindaco Moratti si difende. Rifarei tutto. La gestione dell'emergenza è stata buona. E dunque, proprio a proposito dell'uso dell'esercito, prima l'uso per pattugliare le strade, poi nelle discariche napoletane, ora per spalare la neve a Milano, appunto parliamo delle nostre forze armate. Ma qualche voce si sta levando contro un uso sbagliato dei nostri militari, e fra queste c'è quella del generale Leonardo Trecarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e consigliere militare di Presidente del Consiglio come D'Alema, Amato e Berlusconi. L'ha intervistato Paolo Piacenza. Ovviamente confermo le mie fortissime perplessità personali per quello che possono valere rispetto a un uso un po' bizzarro, forse anche sconsiderato dell'esercito. Nel nostro paese è tutta emergenza, mentre invece grazie a Dio di emergenze non ce ne sono. Emergenza quella che dura da più lusso in Campania per lo smaltimento dell'immondizia. Emergenza una ordinaria nevicata a Milano più volte preannunciata. Ecco, tutte queste emergenze poi si va sempre sulla soluzione più semplice, forse approfittando un po' di chi è abituato a non dire mai di no, ovviamente ci mancherebbe altro che non fosse così. Ovviamente l'emergenza, cioè il terremoto, non debba mai succedere, insomma. Ecco, in quel caso nessuno mette in discussione l'uso dell'esercito, che ovviamente deve contribuire per primo a una collettività nazionale. Il problema, a suo avviso, qual è? Il fatto che sia umiliante questo tipo di attività, il fatto che si tratti di un utilizzo improprio delle forze armate, il fatto che si rischi di sprecare delle risorse, visto che si utilizzano dei professionisti formati per altre funzioni? Tutto quello che ha detto, meno che umiliante, mi sembra un po' forte, è sicuramente demotivante, perché il soldato rimane in Afghanistan e ritorna rinvigorito nelle sue motivazioni, nei suoi convincimenti. Lo mette a spalare la neve, non credo che si possa pensare a un risultato di questo tipo. Quindi è uno spreco senz'altro, perché non siamo più in presenza di soldati di leva, cioè di soggetti, di cittadini che per 12 mesi prestavano servizio e quindi con una bassa professionalità come militare. Siamo in presenza di militari professionisti e quindi questi sono i motivi, e non solo, ma anche la cosa più grave è che confermano un trend che è una deriva verso un uso improprio dei militari, avendo a questo punto, immagino, anche scarsa considerazione per il loro addestramento, per portarli a un rango di esercito che poi si deve misurare nei teatri internazionali di quelli che siamo purtroppo abituati a vedere proprio in questi giorni. Dietro queste scelte sembra esserci l'intenzione del governo di puntare su un utilizzo più civile delle forze armate. È un errore anche questo? Sì, certo. Nessuno nega il fatto che i soldati debbano dare un supporto nel momento in cui ci fosse necessità, però esercitare permanentemente un ruolo di supplenza per l'inefficienza o la scarsa progettualità delle amministrazioni, che poi siano locali, siano centrali, debbano provvedere a queste funzioni, non ultima la sicurezza, intendiamoci, non lascio fuori da questo, anzi, l'impiego dei militari contro la criminalità di strada, quello è un altro capitolo che andrebbe esaminato e che comunque fa parte di questo contesto generale di un uso improprio dei militari. Qual è a suo avviso lo stato di salute delle nostre forze armate oggi? Lo stato di salute è quello di un corpo sano ma molto debilitato, sano con scarsissime risorse e quindi con ancora poca energia da mettere a disposizione del paese, però pronto a intervenire in qualunque contesto ciò dovesse essere necessario, insomma. Però bisogna, ripeto, la debilitazione ormai è quasi da ricovero, ecco, quindi bisogna prendere provvedimenti urgenti, ovviamente a cominciare dalle risorse e dall'uscire poi fondamentalmente da questa ipocrisia. Si vogliono delle forze armate pronte a essere impiegate laddove la politica richieda e nello stesso tempo però ci si gira dall'altra parte quando si devono fornire le risorse corrispondenti. Ed era l'intervista al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, consigliere militare dei presidenti del Consiglio D'Alema, Amato e Berlusconi, intervistato da Paolo Piacenza. E dunque parliamo ancora delle polemiche sulla gestione dell'emergenza a Milano. Il sindaco Letizia Moratti ha detto le cose hanno funzionato. Il commento di Daniele Biacchessi. Il bianco della neve e i raggi di sole fanno uscire Milano e i suoi cittadini da disagi che potevano essere previsti. Ho scritto tutto in un block notes, la cronaca di un disastro annunciato. 5 gennaio, AI, la protezione civile mette lo stato di emergenza per varie regioni del nord, tra cui la Lombardia. La notte tra il 5 e il 6 gennaio inizia a nevicare, c'è poca gente per le strade. Di Epifania si ammassano 20 cm di manto nevoso, gli spargi sale non esistono, i mezzi in azione sono pochi e agiscono sulle circonvallazioni. Ma si sa, è giorno di festa, i milanesi stanno a casa al calduccio, in molti hanno anticipato il loro rientro. 7 gennaio, giorno di ripresa, la neve già a 35 cm. Alle 6 del mattino i profili della macchina quasi non si vedono. I pochi e mal organizzati mezzi spalaneve proseguono la loro corsa lungo le strade principali. Se si gira a destra oppure a sinistra c'è l'inferno. Funziona la metropolitana, meno male. I tram e i mezzi di superficie si incolonnano perché, direte voi, è normale, nevica. No, perché a Milano non ci sono scorte di sale. L'amministrazione le ha chiesto il giorno prima. Le ha imprestate, dice il sindaco Moratti, alle città più bisognose. Intanto custodi, baristi, macellai, droghieri, coraggio, armati di pale puliscono i passi carrai. Ma dove sono gli spalaneve? Sono pochi spazi eroi che lavorano sempre lungo le strade principali, mentre a destra e a sinistra permane l'inferno. E le scuole si chiudono oppure si lasciano aperte. La provincia dice tutte chiuse, il comune decide invece tutte aperte. Le madri di coraggio a bordo delle loro macchine si impantanano nel paciugo melmoso bianco e nero e piangono. E la neve a meno un grado che cosa fa? Gela. Oggi interviene l'esercito. Soldati armati di pale e picconi portano Milano alla normalità. Morale? Morale è che la buona amministrazione si misura dai fatti, non dalle parole. E i fatti ci dicono che Milano non ha retto a 40 cm di neve. Ci sono nuovi passi nella vicenda della guerra tra le procure di Catanzaro e Salerno. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Che cosa succede? Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. È una vera e propria accelerazione quella che il ministro della giustizia Alfano imprime alla vicenda dello scontro tra le procure di Salerno e Catanzaro, nata dal caso De Magistris. In sostanza il guardasigilli richiede al Consiglio Superiore della Magistratura delle vere e proprie sanzioni disciplinari. Queste ultime prevedono il trasferimento di sede e funzione per i 6 magistrati coinvolti, in particolare per il procuratore di Salerno Luigi Apicella, per il quale la Cassazione ha già chiesto il trasferimento cautelare. Si dispone ora anche la sospensione da funzioni e stipendio. Già domani la sezione disciplinare del CSM discuterà della richiesta arrivata dal Ministero di via Arenula. La decisione del guardasigilli è destinata ad alimentare nuove polemiche. Resto sereno, commenta per il momento il procuratore Apicella. Sul fronte politico la maggioranza rinnova l'invito all'opposizione per una riforma della giustizia che avvenga in tempi rapidi. Dall'Italia dei Valori Orlando commenta no alla limitazione però delle intercettazioni. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Parliamo ancora di una questione politica. Sì, abbiamo parlato di giustizia adesso. Di giustizia si parla parecchio dalle parti del Partito Democratico, ma i problemi, gli scontri interni al PD non riguardano solo quello. Sentiamo. E ora in casa PD le liti diventano anche pubbliche. Parla delle cose che sai, guarda che io alla fine reagirò. Non basta dichiarare perché per andare sui giornali, sono un sacco di cazzate quelle che... Deposto il proverbiale aplombo torinese, Piero Fassino si scaglia contro il collega Pierluigi Mantini e, incurante dei microfoni accesi di Radio Radicale, in pieno transatlantico dà fiato alla sua sfuriata per un'intervista dell'ex della Margherita. Si parla dei conti del PD che, dichiara Mantini a Libero, continua a finanziare DS, fa in modo che esistano ancora, dice, a differenza della Margherita che ha devoluto tutto al nuovo nato. Sono nel comitato di tesoreria, non devi far così. E cambia giornale. Si infuria l'ex segretario della Quercia, avrebbe minacciato anche vie legali. Per il momento manda una lunga smentita per dire che la Margherita non ha devoluto al PD il suo patrimonio, né che la sede è stata data al partito a titolo gratuito e altro ancora. Parlo di fatti e non intendo contribuire al nervosismo del PD, la replica di Mantini. Uniti ma in regime di separazione dei beni, DS e Margherita conservano per il momento, in attesa della formale fusione, il loro patrimonio immobiliare, i propri finanziamenti, come anche alcuni dipendenti non ancora assunti dal PD. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. A 10 anni dalla morte, avvenuta l'11 gennaio del 99, tante le iniziative per ricordare Fabrizio De André. Considero il più grande poeta in assoluto degli ultimi anni 50 italiani. Disse così Fernanda Pivano nel consegnare a Fabrizio De André la targa Tenco per il disco Anime Salve e per la canzone Princesa. Lo disse al grande cantautore genovese scomparso 10 anni fa, la notte dell'11 gennaio 1999. Quella notte si spense per sempre una voce che è rimasta impressa nella memoria collettiva, non solo per l'intensità delle sue parole, ma anche per la bellezza della sua musica. E forse proprio per questo sono così tante in questi giorni le iniziative per ricordarlo, in tutta Italia e anche a Torino, con una serie di appuntamenti tra musica e poesia, come quello che il Circolo dei Lettori ha in programma proprio domenica 11 gennaio, intitolato Memoria e non basta ancora, un incontro che prende spunto da un libro appena pubblicato da Chiare Lettere dal titolo Il suono e l'inchiostro, un libro in cui vari studiosi della lingua e della cultura italiana si interrogano sull'importanza dei testi nelle canzoni di Fabrizio De André. Tra questi anche Marco Gaetani, membro del Centro Studi Fabrizio De André dell'Università di Siena, che ricorda come il cantautore genovese rifuggisse dall'etichetta di poeta. De André è sostanzialmente un artista che si sforza, e sono parole sue, di gettare un ponte tra la poesia e la canzone. Non si tratta per lui di essere considerato un poeta, ma di creare qualcosa di nuovo che fosse capace di parlare al cuore, ma anche alle menti di tutti coloro che sono disposti ad aprirsi alla sua parola. Saranno segni miracolosi. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E domenica 11 gennaio dedicheremo ampio spazio al ricordo di Fabrizio De André nei nostri giornali radio. Alle 22.50 Radio 24 manderà in onda in contemporanea al programma di Rai 3 Che Tempo Che Fai, ad altre radio italiane la canzone Amore Che Vieni, Amore Che Vai di Fabrizio De André. E poi a partire da lunedì tutti i giorni alle 15 un'intera ora di trasmissione dedicata appunto alla musica di De André. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Hamas respinge la risoluzione approvata nella notte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non siamo stati consultati. Israele fa sapere per conto suo che andrà avanti nell'offensiva. Il documento chiede il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza. E su questo documento gli Stati Uniti si sono astenuti. Anche oggi tregua di 3 ore per consentire gli aiuti umanitari, mentre l'Italia prepara una missione, spiega il ministro Frattini a Canale 5. Stiamo preparando in queste ore una iniziativa umanitaria italiana. Ci sarà un pacchetto Italia di aiuti per Gaza, lo faremo con le regioni e poi a medio termine, nell'arco dei prossimi 3 mesi, quando la nuova amministrazione americana sarà in pieno servizio, come dire, avrà preso le sue funzioni, studieremo insieme proprio una sessione dedicata al Medio Oriente. A Parigi il consiglio di amministrazione di Air France KLM per dare il via libera all'alleanza con la nuova Alitalia, ma non ci sarà un comunicato in attesa del CDA di Alitalia slittato a lunedì. Intanto Lufthansa ha confermato oggi che proseguono i colloqui con la compagnia italiana, ma secondo la maggior parte degli esperti si tratta solo di un modo per avere più peso nella scelta degli slot di Malpensa. Il caso dei Magistris, il ministro della giustizia Alfano chiede al CSM, che si riunirà domani, il trasferimento di sede di funzione per 6 magistrati delle procure di Salerno e Catanzaro. Per il procuratore di Salerno Luigi Apicella, il ministro chiede la sospensione della funzione e dello stipendio. Sono arrivati ad una base a 2600 metri Marina Attanasio e Mirko Affasio, due degli alpinisti bloccati sulle Ande. Sono coscienti e stanno relativamente bene. Il terzo sopravvissuto, Matteo Refrigerato, è ancora bloccato a quota 6200 metri. Morta invece Elena Senin, come l'uomo argentino che guidava la spedizione. È in carcere a Palermo il figlio di Totò Riina, Giuseppe. Ieri la Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Riina Junior deve scontare una pena residua di 3 anni ed un mese. Mancano solo una decina di giorni all'insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca. Il presidente eletto ha presentato una parte del piano di rilancio dell'economia. Sentiamo da New York Mario Platero. Now, I don't believe it's too late to change course, but it will be if we don't take dramatic action as soon as possible. Per promuovere il suo pacchetto di stimoli per l'economia, Barack Obama ha rispolverato ieri il suo efficacissimo stile elettorale, drammatico e di grande visione, con una differenza: i destinatari non erano più gli elettori, ma il Congresso. Con un avvertimento duro: la recessione potrebbe durare degli anni se deputati e senatori non approveranno subito il suo pacchetto di stimoli da quasi 800 miliardi di dollari. Si rischierà di tagliare 1000 miliardi di dollari dall'economia, il che significa togliere 12.000 dollari di reddito da ogni famiglia americana di 4 persone. Il tasso di disoccupazione potrà arrivare a 2 cifre. Una generazione andrà perduta. La nazione non terrà la sfida competitiva. Ma in Congresso vi sono resistenze. I democratici chiedono favori, i repubblicani criticano la dimensione della spesa e temono un governo federale gigante. Per questo il voto slitterà dal 20 gennaio, come voleva Obama, alla metà di febbraio. Il pacchetto servirà a raddoppiare in 3 anni la produzione di energia verde, pannelli solari, turbine eoliche, motori efficienti, saranno le fonti di nuovi posti di lavoro. Obama ne ha promessi 3 milioni in 2 anni, si porteranno le autostrade elettroniche ad alta velocità negli angoli più sperduti dell'America, si digiterà l'intera cartella medica di ogni cittadino entro 5 anni per salvare vite, ma anche per risparmiare. Il 75% degli uffici governativi sarà modernizzato, si migliorerà l'efficienza energetica di 2 milioni di case americane, risparmiando miliardi di dollari in bollette per il consumatore. La promessa insomma è di passare da un momento di disperazione e di paura a una fase di entusiasmo e di speranza. Molti economisti si chiedono come si pagherà il conto. Abbiamo appreso mercoledì che il disavanzo federale sarà l'anno prossimo di 1200 miliardi di dollari. Con il pacchetto Obama arriveremo a quasi 2000 miliardi di dollari. Questo senza mettere nel conto le spese future per le altre promesse: una riforma della pensione, del sistema sanitario per gli anziani e l'introduzione di un'assicurazione medica nazionale. Per questo i dubbi. Con un caveat: se l'alternativa è la depressione economica, tanto vale giocarsi il tutto e per tutto. E chissà se nel piano economico di Barack Obama potrà entrare la richiesta arrivata dall'industria del porno. Insomma, hanno chiesto dall'industria del porno americana, ci vuole un piano di aiuti come per l'auto. Sentiamo. Incredibile a dirsi, ma la crisi economica arriva sì nel letto degli americani, ai quali la recessione avrebbe tolto lo slancio sessuale. Lo sostengono i big del settore pornografico americano, Larry Flint, reso famoso dal film di Milos Forman, e il suo collega Joe Francis. Le vendite dei DVD a luci rosse hanno subito un calo del 22% e per sostenere il mercato e il desiderio, i due hanno chiesto al Congresso aiuti statali per 5 miliardi di euro. Niente, sostengono, rispetto a quelli accordati all'industria dell'auto. La proposta è stata immediatamente bocciata non solo da deputati e senatori, ma anche da pornostar addetti ai lavori, tra i quali il nostro Rocco Siffredi. che sia stata rifiutata è il minimo, perché immagino che ci siano delle priorità, dai. Ma una provocazione secondo me è giusta, perché comunque sia farsi sentire non solo quando c'è da pagare le tasse, anche quando c'è da dire siamo in difficoltà. Se si parla di film siamo veramente ai minimi storici, cioè il DVD di un film nuovo che ne vale la pena si vendono se no 300 pezzi, 300 DVD in Italia è ridicolo. Se qualcosina entro da Sky, però adesso anche Sky grazie alla super tax del nuovo governo, anche Sky taglierà, quindi tagliano di qua, tagliano di là e siamo quasi senza centimetri. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è un'ultima ora che viene battuta dalla France Press. I pirati somali hanno annunciato oggi di aver liberato la super petroliera saudita Sirius Star, che era stata catturata lo scorso 15 novembre. Ricordiamo che a bordo della petroliera c'erano circa 2 milioni di barili di greggio. Giulia Crivelli, abbiamo parlato parecchio di crisi che si sposta, insomma, non solo America ed Europa, ma anche Sud America adesso. Sì, è come insomma, se avessimo avuto bisogno di un'ulteriore dimostrazione di cosa significa globalizzazione, è anche questo. L'analisi del Financial Times occupa un'intera pagina, si intitola Going South, cioè andando verso sud, e c'è una tabella molto efficace che fa vedere come sia diminuito, come le previsioni per il GDP, il PIL del 2009, siano tutte in diminuzione rispetto al 2008, nel caso dell'America Latina naturalmente dovuto al fatto che sono dei grossissimi esportatori di materie prime, l'economia mondiale rallenta, abbiamo meno bisogno di materie prime, nostro malgrado, e quindi naturalmente le economie del Sud America ne risentono quasi per prime. Non ci sono buone notizie per il vino italiano all'estero, Giulia, che sta succedendo? Il Wall Street Journal oggi ci ha fatto questo scherzetto, nelle pagine del weekend, che è il venerdì, il Wall Street Journal Europe esce con queste pagine weekend, e il titolo è Wines for the Times, i vini per il nostro tempo, gli esperti indicano che cosa comprare e si sbizzarriscono nel citare vini francesi, addirittura austriaci, e qualche neozelandese, qualche argentino. Non hanno capito niente, insomma. Niente, perché non c'è neanche un italiano. Giulia, un'ultima cosa, una polemica che si è sviluppata sulla stampa europea e riguarda un personaggio dei cartoni animati, ossia Tintin. Che cosa succede? Ah, adesso qui è veramente divertente, c'è questa faida tra inglesi e francesi, perché Matthew Paris, questo giornalista, tra l'altro ex parlamentare conservatore inglese, ora giornalista del Times, ha osato dedicare due pagine del Times alle sue presunte conclusioni sulla un'attenta lettura dei fumetti di Tintin. Tintin sarebbe gay e spiega perché mancano le figure autenticamente femminili e ci sono solo delle virago, da una serie di altri motivi, ma in un modo molto scherzoso. I francesi non hanno riso per niente, hanno preso molto sul serio Matthew Paris. C'è un commento anche su Les Echos, che è il giornale economico francese di oggi, dove sostanzialmente dicono Matthew Paris è fuori, non ha capito niente di Tintin, non osi dire una cosa del genere, Tintin non è gay. E comunque più macisti dei sudamericani francesi, evidentemente. Va bene, grazie Giulia anche per oggi, ci risentiamo lunedì. L'annuncio era stato fatto giorni fa, oggi la decisione ufficiale. La Kawasaki si ritira dalle competizioni della MotoGP. Il commento dell'esperto di motori Mario Poltronieri. La sostanza è che i costi sono spropositati. In una situazione di crisi, quale quella che stiamo vivendo e di cui non sappiamo ancora esattamente quale sarà lo sviluppo e il peso, è evidente che soprattutto chi non ha ottenuto grandi risultati e quindi viene a perdere il vantaggio di utilizzare il mezzo come promozione del marchio, ci colga questa occasione per dire beh, ripensiamoci, vediamo, studiamo nuove soluzioni. La cosa grave è il fatto che appunto Kawasaki è un nome di aziende enormi in Giappone, evidentemente il reparto non è riuscito a rendere la moto competitiva e quindi probabilmente non se la sentiva. Però come nel caso della Honda, qualche tentativo di recupero da parte di altri sponsor o di altri team manager ci potrebbe ancora essere. Io credo che per fare una valutazione reale della situazione sia della Formula 1 sia del Rally sia della MotoGP bisognerà aspettare ancora un mese e mezzo, dopodiché sapremo esattamente innanzitutto quali sono gli sponsor che si ritirano, poi quali sono le case e poi qual è la situazione piloti. Io penso che sarà interessante, però resteranno queste corse? Sì, resteranno, verranno modificate, verranno ridotte le spese, però quello che conta, e cioè il fatto ci sarà spettacolo o non ci sarà spettacolo, siamo in una direzione in cui si può sperare che ci sia spettacolo. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Dopo la risoluzione approvata nella notte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Israele fa sapere che andrà avanti nell'offensiva e Hamas respinge la risoluzione. Non siamo stati consultati. Il documento che chiede il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza è stato approvato con 14 voti a favore, mentre gli Stati Uniti si sono astenuti. Anche oggi tregua di 3 ore per consentire gli aiuti umanitari. La notizia è arrivata poco fa. I pirati somali hanno liberato la super petroliera saudita Sirius Star, sequestrata a metà novembre. A bordo ci sono 2 milioni di barili di greggio. Oggi a Parigi il consiglio di amministrazione di Air France per dare il via libera all'alleanza con la nuova Alitalia, ma non ci sarà comunicato in attesa del CDA di Alitalia, slittato a lunedì. Intanto Lufthansa ha confermato oggi che proseguono i colloqui con la compagnia italiana, ma secondo gli esperti si tratta solo di un modo per avere più peso nella scelta degli slot di Malpensa. Caso De Magistris, il ministro della giustizia Alfano chiede al CSM, che si riunirà domani, il trasferimento di sede e di funzione per 6 magistrati delle procure di Salerno e Catanzaro. Per il procuratore di Salerno, Luigi Apicella, il ministro chiede la sospensione della funzione e dello stipendio. Sono arrivati ad una base a 2600 metri Marina Attanasio e Mirko Affasio, due degli alpinisti italiani bloccati sulle Ande. Sono coscienti, stanno relativamente bene. Il terzo sopravvissuto è ancora bloccato a quota 6200 metri. Morta invece Elena Senine, la guida della spedizione, un uomo argentino. È in carcere a Palermo il figlio di Totò Riina, Giuseppe. Ieri la Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Riina Junior deve scontare una pena residua di 3 anni e 1 mese. Andiamo a parlare dunque degli alpinisti italiani che sono nella spedizione sulle Ande. Paolo Panceri, quali sono gli aggiornamenti al momento? Che cosa si sa? Come avete detto voi da studio, è Elena Senini di 38 anni di Ivrea, l'alpinista che è morta sulla Aconcagua, a quota 6700 metri nelle Ande argentine, la montagna più alta del Sud America. La conferma è arrivata dal console italiano a Mendoza, Pietro Tombacini, il quale ha confermato anche la morte di Federico Campanini, la guida argentina che faceva parte della spedizione italiana. La Farnesina invece ha smentito la notizia della morte di un secondo alpinista del gruppo. Gli altri 3 italiani bloccati da mercoledì vicino alla vetta e che ora stanno scendendo verso il rifugio sono Marina Attanasio di Milano, che ha 38 anni, Matteo Refrigerato, che ne ha 35, e Mirko Affasio di 36, entrambi di Cairo Montenotte nel Savonese. Il gruppo, lo ricordiamo, è stato raggiunto dai soccorritori argentini con l'aiuto dei quali sta raggiungendo in questi minuti in barella il rifugio di Indipendenza, circa 6200 metri. Fin dall'arrivo del team argentino, che è avvenuto giovedì, gli alpinisti erano sprovvisti di tende e sacchi a pelo e, secondo la ricostruzione dei soccorritori, dopo aver raggiunto molto tardi la cima della Aconcagua, il gruppo ha sbagliato il sentiero per la discesa. Inoltre, il componente del gruppo, che era la guida della cordata, perso l'equilibrio e ha trascinato gli altri sul pericolosissimo ghiacciaio dei Polacchi, dove peraltro sabato scorso era morto un alpinista tedesco. Per il momento è tutto, vi ridò la linea. E ora tutt'altra vicenda, ma che riguarda sempre nostri connazionali in pericolo all'estero. Parliamo delle due suore rapite in Kenya. Le suore rapite in Kenya stanno bene, a dirlo è l'onorevole Margherita Boniver da ieri a Nairobi. La Boniver, inviata speciale del ministro degli esteri Franco Frattini, ha avviato una serie di incontri a massimi livelli con autorità governative del Kenya e del governo federale di transizione somalo. Secondo la stessa fonte, sarebbero in corso trattative serrate per arrivare alla liberazione delle due missionarie italiane, Caterina Giraudo e Maria Teresa Oliveiro, rapite lo scorso 9 novembre a Delawak, in Kenya. Sulla vicenda resta ancora il massimo riservo, ma è trapelata la notizia che nell'ultima settimana ci sarebbero stati contatti telefonici che hanno riacceso la speranza. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Torniamo ora alla crisi in Medio Oriente. In apertura vi abbiamo parlato delle ultime novità. Lo sapete, nella notte la risoluzione dell'ONU che chiede il cessate il fuoco, ma sia Hamas che Israele l'hanno di fatto rifiutata. E questa mattina il ministro degli esteri italiano, Franco Frattini, ha annunciato una missione umanitaria italiana. Ne ha parlato questa mattina a Canale 5. Stiamo preparando in queste ore una iniziativa umanitaria italiana. Ci sarà un pacchetto Italia di aiuti per Gaza, lo faremo con le regioni. Abbiamo già avuto una risposta molto positiva dal presidente della regione Toscana. incontreremo lunedì le regioni italiane, tutti metteranno a disposizione qualcosa, creeremo un convoglio umanitario italiano per i palestinesi di Gaza e poi a medio termine, nell'arco dei prossimi 3 mesi, quando la nuova amministrazione americana sarà in pieno servizio, come dire, avrà preso le sue funzioni, studieremo insieme proprio una sessione dedicata al Medio Oriente, perché i paesi del G8 più l'Egitto più i grandi attori come ad esempio la Turchia, sempre paesi musulmani di grande importanza, paesi moderati, possiamo lavorare tutti insieme. Ed ora una storia dalla striscia di Gaza, ce la racconta Adib Fateli. Mi rivolgo al signor Ehud Barak in lingua ebraica. Così mi possono sentire tutti i padri di famiglia israeliani, dice un padre palestinese mostrando alle telecamere della TV Al Jazeera i corpi senza vita dei suoi 4 bambini uccisi in un raid israeliano a Gaza. Parlando in uno spigliato ebraico, l'uomo solleva e avvicina le vittime alle telecamere mostrando i fori del piombo che ha perforato il petto dei bambini. Dallo studio, il più noto anchorman di Al Jazeera, passando al servizio successivo, trattiene a stento le lacrime. Secondo l'ONU, in 14 giorni a Gaza sono rimasti uccisi 257 bambini. Adib Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. È in carcere da ieri sera Giuseppe Rina, figlio del boss Totò. Rina Junior, condannato a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, si trovava a Corleone, al soggiorno obbligato, e ieri sera è stato arrestato e condotto al carcere del Lucerdone di Palermo. Arrestato nel 2002, Rina Junior era tornato in libertà lo scorso febbraio per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Adesso dovrà scontare un residuo pena di 10 mesi della condanna che gli era stata inflitta nel 2007 dalla Corte d'Appello di Palermo. Secondo i giudici, il giovane Rina avrebbe messo su un clan che operava fra Corleone e Palermo. Il ragazzo, ieri sera, ha sottolineato il suo difensore, Luca Cianferoni, aveva già le valigie pronte in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Gianpiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. È venerdì, il giorno della nostra rubrica. Si vede che è venerdì, sì, perché siamo a fine venerdì. Settimana. È il giorno della nostra rubrica sulla sicurezza stradale, sentiamo. Questa volta vorrei occuparmi, perché un po' tutti siamo impreparati su questo argomento, con Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza, del cosiddetto CID, il modulo CID, ve lo ricordate, no? Quello della constatazione amichevole. Come si compila quando ci sono quei temporamenti non tanto gravi, che appunto amichevolmente si potrebbe constatare di chi è la colpa, insomma, come è avvenuta la dinamica e tutto quanto. Come si compilano, come ci si deve comportare, Silvio Scotti? Beh, dunque, innanzitutto se ne deve compilare uno solo, ci sono coppie sufficienti per entrambi gli automobilisti e in quel momento bisogna che un automobilista si assuma la parte del conducente del veicolo A, l'altro del veicolo B e eventualmente anche del veicolo C, se magari ci fossero un terzo coinvolti. In quel caso non ci si assume nessuna responsabilità, nel senso che si descrive ciò che è avvenuto, ci deve essere quindi un minimo di concordia sulla dinamica dell'incidente. Diciamo che questo sarebbe l'ideale, no? Che ci fosse un minimo di concordia, hai detto tu, ma spesso può avvenire che due ritengano che la colpa sia dell'altro, no? Insomma, diventa difficile. Se uno dei due, probabilmente quello che si sente magari un po' più colpevole, diciamo, non ha intenzione di compilare, di firmare o di dare un documento, come bisogna agire in quel caso? In questo caso è piuttosto problematico, perché quello che dovrebbe essere un dovere civico condiviso ampiamente, in realtà è anche previsto dal codice come comportamento obbligatorio e in caso di non temperanza è sanzionato. In caso si allontani senza lasciare i propri dati, senza farsi sufficientemente identificare e fornire tutte le indicazioni richieste, è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 74 a 296 euro. Addirittura è soggetto ad una denuncia di carattere penale qualora invece ci fossero, oltre che danni di tipo materiale, anche danni fisici ai conducenti o comunque a un altro utente della strada. Quindi confermi l'importanza di prendere almeno la targa? Direi proprio di sì, ma soprattutto di comportarsi in maniera civile e di scambiarsi le generalità tranquillamente, anche se magari non si è d'accordo sulla dinamica. C'è sempre modo di attivare i meccanismi risarcitori attraverso le assicurazioni. Grazie Silvio Scotti, quindi mi raccomando, sempre con civiltà, Roberta Giordano vi invita anche come sempre a guidare con intelligenza. E ora il riepilogo delle notizie principali della giornata. La risoluzione dell'ONU per il cessate il fuoco non basta, Hamas la respinge, Israele prosegue le operazioni militari. La ricerca del partner, Lufthansa dice i colloqui con Alitalia vanno avanti, oggi CDA di Air France, lunedì quello della compagnia italiana, Fiumicino protesta degli addetti alla manutenzione. Sulla guerra tra procure, la linea dura di Alfano, via 7 magistrati da Catanzaro e Salerno, il ministro chiede la rimozione e la sospensione del procuratore Apicella. C'è ancora un alpinista italiano bloccato sulla cima della Aconcagua, sulle Ande, sono riusciti a scendere, una donna è morta. Liberata dai pirati somali la super petroliera saudita Sirius Star, a bordo ci sono 2 milioni di barili di greggio. La sfuriata è in diretta, Piero Fassino prende a male parole un deputato del PD mentre Radio Radicale lo intervista. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, con Maria Piera Ceci al coordinamento e Pietro Lacorte in regia. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Per ascoltare la puntata, il sito è www.radio24.it. Tra poco c'è Palla a Spicchi, il prossimo giornale radio è alle 15, Extra Large invece ritorna lunedì alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.